Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Scegliendo le rinnovabili, gli italiani hanno fatto una scommessa. Una scommessa sul fatto che le rinnovabili, appunto, alla lunga si riveleranno economicamente competitive e infine superiori alle fonti tradizionali, nucleare incluso. Ma quando questo accadrà? Vicino a Cuneo una piccola società italiana sta costruendo il primo esemplare industriale di KiteGen, una tecnologia che produce energia elettrica grazie ad aquiloni in grado di intercettare i venti di alta quota, oltre 1000 metri, dove le pale eoliche, anche le più grandi, non arrivano. Marcello Corongiu, project manager di KiteGen, ha spiegato così il principio di funzionamento di questo apparato nel corso della puntata di Mr. Kilowatt del 31 marzo. Ascoltate. Sì, in realtà il concetto è abbastanza semplice. Il kite è un'ala che vola nel vento e volando genera una portanza, cioè una trazione perpendicolare alla direzione di volo. Si tende il cavo a cui è attaccato l'aquilone, insomma, in parole povere. Che viene trasmesso al cavo a cui è attaccato. Questo cavo arriva fino a terra ci sono delle macchine che sono sostanzialmente come una dinamo, sono degli alternatori, che vengono messi in rotazione da questo cavo. Che si svolge, no? Perché c'è proprio, ecco, c'è un rocchetto di cavo a terra, esattamente come si fa quando si manda su un aquilone sulla spiaggia, che bisogna svolgere quei rocchetti. Questo rocchettone, per così dire, è attaccato a un generatore elettrico. Esattamente. Diciamo che prima di arrivare al rocchettone passa il cavo, fa un giro intorno a una puleggia che è a sua volta attaccata a un altro alternatore, quindi parte della forza viene estratta da un primo alternatore e poi va sul rocchettone. Secondo Corongiu, l'energia prodotta da KiteGen costerà dai 50 ai 90 euro al megawattora, quindi del tutto paragonabile al costo dell'energia prodotto con sistemi tradizionali. Inoltre, poiché parliamo di strutture estremamente piccole e leggere, si risolverebbero gran parte dei problemi di compatibilità ambientale. Poco distante da Cuneo, in provincia di Vercelli, sempre in Piemonte, che evidentemente è molto attivo in questo campo, è in corso di costruzione invece il primo impianto su scala industriale per la produzione di biocarburanti di seconda generazione, che dovrebbe produrre etanolo, l'alcol sostituto della benzina, competitivo col petrolio a partire da $60. Quindi, insomma, etanolo più economico della benzina. Vito Pignatelli, che è esperto di biocombustibili dell'Enea, ha spiegato così la differenza tra prima e seconda generazione. L'etanolo di seconda generazione viene prodotto a partire dalla cellulosa, non dagli zuccheri presenti nella canna da zucchero, dall'amido presente nei cereali, no, viene prodotto dalla cellulosa. Che è un altro zucchero, tutto che sommato. È un polimero degli zuccheri, anzi, è sostanzialmente lo zucchero o il polimero dei zuccheri di gran lunga più abbondante sulla superficie della terra. Quello che dà consistenza alle piante, cioè sì, il materiale di base. È insieme alla lignina, esatto, il componente essenziale che dà corpo alle piante. La cellulosa è presente in tutti i prodotti di scarto della lavorazione del legno, ma anche dei residui agricoli, oppure può essere prodotta da coltivazioni dedicate, che hanno la caratteristica di poter crescere con pochissima fertilizzazione, poca acqua e quindi essere utilizzate come una materia prima ecosostenibile. Ad aver messo a punto il processo industriale per trasformare la cellulosa in etanolo è Mossi e Ghisolfi, una grossa azienda chimica italiana, ma la sfida comincia solo ora, perché la vera difficoltà sarà verificare sul campo che anche la filiera agricola messa in piedi per rifornire l'impianto di materia prima funzionerà davvero. Parliamo della Rundodonax, la canna dei fossi, una specie molto comune, addirittura infestante dalle nostre parti, che è molto molto ricca di cellulosa. Non richiede fertilizzanti per essere coltivata, cresce agevolmente, addirittura senza irrigazione, anche su terreni marginali e quindi non destinabili ad usi agricoli pregiati. Ora bisognerà vedere se la filiera starà in piedi, riuscirà a fornire le migliaia di tonnellate di Arundodonax necessarie a far funzionare a pieno regime l'impianto. Affrontiamo adesso l'ultimo capitolo di oggi, che dedichiamo al fotovoltaico, la più popolare tra le fonti rinnovabili, di cui cerchiamo di capire il trend. Ne ho parlato con Gianni Silvestrini, che è stato a lungo presidente del Kyoto Club e che oggi dirige Quale Energia, un portale che fornisce, insomma, informazioni proprio sul mondo dell'energia. Gli ho chiesto innanzitutto qual è stato il trend negli ultimi anni del fotovoltaico. Ascoltiamo. se guardiamo sul lungo periodo, che poi per le rinnovabili sono 20-25 anni, la riduzione è stata sensibile sia nel caso dell'eolico con riduzione di 4-5 volte, sia nel caso del fotovoltaico che ha avuto riduzioni anche più marcate. Negli ultimi 3 anni il fotovoltaico ha dimezzato i propri prezzi di vendita, che significa che ha subito un'accelerazione dopo un periodo di pausa dovuta al fatto che nel 2007-2008 c'è stata una richiesta boom a livello mondiale e questo ha comportato una tensione sui prezzi. Adesso sta riprendendo la corsa discendente, che è una corsa progressiva, cioè ci sono miglioramenti nelle varie tecnologie del fotovoltaico progressive, per esempio il solare a concentrazione che aveva un rendimento del 24-25% nel 90, adesso è 41,6%, sono celle che hanno un maggior livello di rendimento più elevato. Abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione che, per esempio, per quanto riguarda i biocombustibili, per quanto riguarda l'eolico, potrebbero essere pronte quasi a esordire sul mercato delle tecnologie di rottura, cioè che proprio fanno fare un balzo avanti nella competitività di queste fonti. Per il fotovoltaico non si vede una tecnologia di rottura altrettanto forte all'orizzonte. Che cosa possiamo aspettarci per il futuro? Quindi che continui questo andamento progressivo, questa riduzione progressiva? Ma io penso che continuerà un miglioramento progressivo delle celle cristalline, dei film sottili, ma penso anche che spunteranno dai cassetti di laboratori probabilmente californiani, ma ci sono anche una battaglia molto aspra in competizione con il Giappone, con la Cina, anche con l'Europa, delle tecnologie estremamente innovative, diciamo di terza generazione, che potranno fare un salto sia in termini di rendimento che in termini di costo. Del resto gli americani, Stephen Chu, ministro dell'energia americano, premio Nobel, si è posto un obiettivo di $1 a watt al 2020, che se fosse raggiunto consentirebbe, parliamo delle grandi centrali solari, non degli impianti sugli edifici, grandi centrali solari in zone solare come in Arizona, in California, di essere competitive nella produzione di energia elettrica con le fonti convenzionali. Naturalmente eolico, fotovoltaico e biocombustibili non esauriscono le possibili alternative alle fonti tradizionali, che dire infatti dell'energia dalle onde, dalle correnti marine, dal mini idroelettrico, e questo senza contare la possibilità che ci siano anche sorprese che in questo momento fatichiamo a prevedere. Ci sono insomma molte probabilità che non ci pentiremo della scelta appena fatta. Continuiamo domani con l'Italia oltre il nucleare, l'appuntamento con Mr. Kilowatt è come sempre alle 9.05 qui su Radio 24, parleremo delle fonti tradizionali complementari alle rinnovabili. A voi tutti, buona serata.